Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, io volevo proporre una grande inchiesta della zanzara. Io ho la sensazione che il vecchio caro pelo di figa stia ritornando di moda. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Ti voglio bene perché hai scritto Sendero Luminoso e hai conosciuto bene Guzman, Abimael, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso, diglielo chi era, Abimael Guzman, questo disgraziato, sei un gabinetto schifoso. Io quando vedo la gabbia e c'è la tua faccia brutta, non la guardo, e sono un ammiratore, quello ti fa un culo così, paragone, ti fa un culo così, eppure io non la vedo la gabbia, perché ci sei tu. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì. Sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo, guarda della puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei, quererami, merda, quererami, tu sei riccione, come Macron. David, non c'è solo Zucchero qui, non c'è solo almeno, Zucchero. Almeno in pochi minuti, almeno 3 reati ho contato. In pochissimi minuti. Ma perché se uno ti dà dell'omosessuale, del frocio, no, che cosa fai tu? Diffamazione. Te la prendi? Te la prendi? Perché non corrisponde al vero e cosa si fa una cattiva pubblicità. Una cattiva pubblicità. Il democratico Parenzo, non può essere toccato su questo punto. Tale definizione potrebbe risultare ostativa. A che cosa? Nel caso qualche fanciulla decidesse di avvicinarsi, perché potrebbe desumere da quanto sentito nella radio cosiddetta 24 della Cosa? Che il sottoscritto sarebbe di tendenza omosessuale. Non ci sarebbe nulla di male nell'esserlo, ma non essendolo potrebbe arrecare un danno inestimabile alle attività del suddetto professor Parenzo. Allora, il Parenzo, se la prende perché gli danno dell'omosessuale, vi rendete conto? No, perché se uno il democratico dice... Parenzo. No, ma se uno dice una cosa non vera, non comunque, non c'è solo Zucchero. Voglio segnalare che il PM di Trapani, PM di Trapani, sostiene singoli membri ho visto. Di una ONG indagati per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Stiamo a vedere, singoli membri. Membri di ONG che non sono membri di quel tipo, ma appartenenti ad alcune chiacchierano, vediamo, fatti, carte, cose, forza. Adesso chiacchierano, bla bla bla, chiacchierano nella fase ancora in cui non si sa neanche se non molliamo. Cartosio, Zucchero, non mollate. In alcuni casi le loro navi sono intervenute senza informare. Cartesio sarà semmai. Cartosio, non pigliare per il culo il PM Cartesio. Di Trapani. In alcuni casi le loro navi delle ONG sono intervenute senza informare la guardia costiera. È un reato salvare le vite? Allora questi giudici vogliono scrivere una nuova giurisprudenza, o meglio vogliono inventarsi un nuovo reato. Accusati? E il nuovo reato sarebbe quello di soccorrere gente che sta per morire in mare. Ecco il nuovo reato che una parte della magistratura vuole inventare. Comunque sentiamolo questo tizio, com'è che si chiama questo qua? Cartosio, sentiamo. Alla procura di Trapani risulta che in qualche caso qualche intervento delle ONG è avvenuto senza informare la Guardia Costiera. Allora, a proposito dei rifiuti a Roma, la Raggi dice che hanno ereditato un sistema fallato. Un sistema fallato. Vabbè, questo non c'è anche, dubbio. Questo su questo non c'è dubbio. Quando dopodiché uno dice una cosa giusta va riconosciuta. Sì, dopodiché però uno non è che se la può cavare dicendo, come ha fatto Di Maio ieri sera, beh, c'è qualche cassonetto a Roma. Perché voglio ricordare ai 5 Stelle, a Di Maio, che loro quando non erano al governo e quando al governo c'era qualcun altro, per esempio Marino, per fare un esempio a Roma, ma l'esempio si può anche fare per altre città, bastava una cosa fuori posto che ci facevano due marroni così, dicevano. Vabbè, è normale, lotta politica, è ovvio, esatto, che l'opposizione faccia l'opposizione. Per cui adesso Di Maio che dice vabbè qualche cassonetto, sentiamo il Di Maione, vai. Continuare a mostrare queste foto di qualche cassonetto, non di tutti i cassonetti, facendo vedere in questo momento qua stanno tutti per lei, no, come avrà capito, per però carità, davanti alla, in questo momento io penso una cosa, che Roma vada ripulita. Noi stiamo dando il massimo sulla pulizia e sull'apertura degli impianti. C'era qualche rumore di fondo quando ha detto a Roma qualche cassonetto, perché se l'avesse detto qualcun altro, qualche cassonetto non è niente di grave, i 5 Stelle se lo sarebbero mangiato. Bravo, se lo sarebbero mangiato. Ma questo non mi interessa, è normale lotta politica, guarda. Ripuliscano la città, lo facciano presto, speriamo che si veda che la Raggi, insomma, ormai quanti mesi è che governa la Raggi? Quasi un anno. Quasi un anno, nove mesi praticamente. Quasi un anno, sì. Ecco, hai visto, tu non vivi qui a Roma, vivi a Milano, in quella via meravigliosa che si chiama via, adesso daremo il numero ma civico. Ma non è vero, quindi, non c'è nessuna via meravigliosa, via normalissima. Via abiti, ma una via normalissima, abiti. Che dici? No, in questo attico con quel povero comunque, migrante. La cosa incredibile di oggi è che sono morte questi tre sì, ragazzi rom, di seria. Cui due bambine, guarda, io stasera te lo dico, se stasera sento qualche imbecille, ma interverrà sicuramente qualcuno, ma non c'è dicendo, dubbio. Io lo mando non a quel paese, ma che non parlo, veramente, ma arrabbio, perché su questa cosa qui non si può scherzare. Il rogo doloso in questo camper, dove camper, non si sa chi è stato ancora, non si sa chi è stato. C'è un video, c'è un video tre di uno che sorelle, butta una, tre ragazze, tre bambine morte, sì. Morte, d'accordo? Tre bambine in un camper. Rom, tre bambine no, rom. Sì, ma non in un campo rom, in un camper, cioè erano da soli in questo camper, in questa zona di Centocelle, eccetera, eccetera, sì. Eccetera. Se qualche miserabile, se qualche stronzo, se qualche imbecille, se qualche non fascista, qualche idiota chiama per dire bene, sono contento. Ma chiudi tutto. Veramente, ma fai non qualcosa, si chiude niente fai qui, vedere, no ma veramente fai sentire anche tu che è una cosa intollerante, che non si può dire, non si può dire, che è una cosa veramente. Sentiamo Salvini, sentiamo Salvini, dai. Ma che cosa c'entra Salvini? Quando capiremo chi è stato, sono disponibile a partire per prendere a calci in quel posto chiunque si sia permesso di togliere la vita a queste persone. Dunque, Sabini dice a calci, non solo a calci, diciamo, no? Chi ha tolto la vita a queste persone, caro Salvini, c'è forse qualcosa in più rispetto ai calci. Galera, criminali. Calci. Comunque, vai. Criminali. Che i campi rom non debbano esistere in un paese civile è una convinzione che io ho sempre e comunque, però aspetto di vedere se vengono beccate le bestie che si sono resi responsabili di questo atto vile. Allora ti leggo qualche commento sul sito di Il Giornale, per esempio. Sul sito del Giornale, Il Giornale, del quotidiano Il Giornale. Diretto da Sallusti, no? Sti zingari fanno fuoco e fiamme. Zingari. Beh, è normale quello che scriviamo. No, scusi, signor Sallusti, non è possibile. Sentiamo cosa ha scritto. No, ma non ha scritto nessuno, sono i commenti sotto gli articoli. Che non tolgono, che li lasciano. No, soprattutto sono dei nomi non reali, diciamo, sono dei nickname. Sti zingari fanno fuoco e fiamme. A volte la natura provvede da sé contro la stoltezza umana. A volte la natura provvede da sé. Mi sembra normale libertà di stampa e di informazione. Ma come normale? È una cosa inghiacciante. Ma è normale, no? Mi pare. Quando la gente si porta al limite dell'esasperazione. Se fosse stato il camper di un italiano parcheggiato in un luogo proibito, sarebbe stato subito fatto allontanare. Sarebbe interessante sapere se il mezzo era assicurato, collaudato e non rubato. ragazzi, lo ribadiamo per l'ennesima volta, noi con questo pseudo scherzo, che non si sa bene se sia stato uno scherzo, a un membro della famiglia Mussolini che abbiamo identificato, non c'entriamo assolutamente un cazzo. Spieghiamo, ma che è successo, io dico anche purtroppo non c'entriamo un cazzo, cioè nel senso che non siamo stati noi a chiamare questa Mussolini o questo Mussolini per far cambiare cognome. L'abbiamo fatto spesso nei mesi scorsi, invitando le persone che si chiamano Mussolini a cambiare cognome, ma per scherzo ovviamente, ognuno può fare il cazzo che vuole, figuriamoci se uno che si chiama Mussolini deve cambiare cognome. Era semplicemente... No dai, non dimmi che sei d'accordo sul fatto che... No, uno... dico magari ma la gente mica si vergogna a chiamarsi Mussolini, secondo te si dovrebbe vergognare qualcuno a chiamarsi Mussolini? In Germania, come tu sai, gli eredi, insomma qualcuno della famiglia Hitler ha nascosto le proprie origini, ma giustamente dalla vergogna. Ma io non ho capito, qualcuno che si chiama Mussolini secondo te dovrebbe cambiare cognome? Io ho detto molto tranquillamente che se uno ritenesse quel nome un po' compromesso, come nei fatti è, mi pare, allora, no? Dilla tutta, secondo me. Guarda, uno dovrebbe avere vergogna a chiamarsi Mussolini, dai. Francamente, amico mio, se io mi chiamassi David Churchill, ho la fortuna di chiamarmi Parenzo, ma se avessi se mi chiamassi Churchill, Roosevelt da Elano, no? Mi chiamassi, che so io, Kennedy, non avrei motivo di... Parenzo, ovviamente. Invece se ti chiamassi Cruciani, visti, diciamo, no? Viste quali sono le tue esperienze. Cambieresti cognomi, no? Tra qualche generazione, quando i tuoi nipoti che ti auguro di avere tanti diranno: vediamo cosa fece il mio trisnonno. Il mio trisnonno dice: sentiamo, parlava di squirting, tu cambia cognome subito. Quindi, per analogia, io fossi, no, un giovane Mussolini, amico mio, qualche domanda me la farei. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. La Zanzara. Il camper di Rom si è incendiato a Roma. Tre ladri zingare in meno. Che cazzo vuoi? Io so che cosa. Allora, caro Davide, questo commento l'ho messo apposta perché è arrivato da questo solito personaggio che sostiene di essere una specie di cacciatore di Rom, proveniente da Messina. Io voglio capire innanzitutto se questo è un personaggio vero, perché fosse un personaggio finto sarebbe anche uno straordinario attore, diciamo, no? Cioè uno che si picca di essere un cacciatore di Rom. A me pare cacciatore un idiota. A me sembra un idiota. Sì, certamente un idiota. Totale. Però voglio capire se il cacciatore di Rom esiste sul serio, cioè se veramente va a cercare i Rom in giro facendo anche, commettendo anche qualche reato, da quello che ci racconta in una serie interminabile di messaggi che mi manda, oppure è invece un artista della parola, un artista del travestimento, un anti-Rom per finta. Allora senti quello che ha detto D'Alema, ragazzi, perché vi faccio ascoltare D'Alema? Certamente non per cose di politica, di uno me ne frega assolutamente ottimo, un cazzo. No, per carità, ma ottimo, tu dici ottimo. Cioè abbiamo scoperto che Parenzo è un grande tifoso di D'Alema. Ma tifosissimo, cioè, di D'Alema e di Prodi, ma tifosissimo di D'Alema e Prodi. Di D'Alema, beh, Prodi è uno dei migliori presidenti del Consiglio. D'Alema è una persona che ha una grande visione delle cose, diciamo, allora, ha una visione della politica estera, diciamo. Antropologicamente un arabo e un calabrese non li distingui. Beh certo, bravo, è vero. Senti. È vero. Senti, straordinario. Antropologicamente un calabrese e un arabo non si distinguono. Non abbiamo prove di lei. Mentre a Oslo l'arabo lo vedi. Amici del MotoGP, Zingara, ma non capisci, qui non ti vogliamo, è libero. Allora, Marco da Milano, vai Marco. Sì, ciao Beppe, buonasera. Dimmi. Senti, oggi hanno fatto vedere un servizio interessante sulla 7, su un barcone di siriani, 268 siriani, che sarebbe affondato vicino alle acque maltesi. Allora hanno chiamato la Guardia Costiera Italiana poi la Guardia Costiera Italiana ha detto di chiamare la Guardia Costiera Maltese, perché loro erano molto vicini alle coste di Malta. Sì, allora... E i nostri ottimi amici maltesi non si sono presentati e questi sono affondati. Ma non ho visto nessuno che si è fiondato a criticare o a dire qualcosa sugli amici maltesi. Invece noi, quando noi ci permettiamo magari di fare qualcosa del genere, noi siamo passibili di multe di qualsiasi tipo di cosa. Cosa vuol dire? Non credo. Sei contento che sia, sei contento che sia affondato questo barcone? No, ma io non sono contento, anche perché i siriani forse erano gli unici che avevano bisogno, mentre noi andiamo a prendere anche altri che non ne avrebbero. E allora non ho capito che i maltesi lo possono fare e noi non lo possiamo fare. Ma non lo so, no, i maltesi si fanno i cazzi loro, come è noto, cioè non gliene frega nulla. Non ci possiamo fare non gliene frega i nostri. Ma sì, ma infatti secondo me ci dovremmo fare ampiamente i cazzi nostri. Bravo, il problema fondamentale è che i maltesi se ne fottono, fanno quello che vogliono, non accolgono praticamente nessuno. Se ne fregano e basta, cioè ragionano come vogliono loro, se ne fottono di tutto il resto. E invece no, noi non ce lo dobbiamo fottere, no, noi dobbiamo passare. Va bene, Lucio da Verona, vai Lucio. Allora, Giuseppe, ascoltami bene. Io qualche tempo fa mi sono entrati due zingarelli nel mio appartamento. Io ero fuori in cortile, avevo il cane, si è messo a abbaiare, sono entrato e li ho trovati che scappavano dalla finestra. Secondo te io potevo ammazzarli? Non lo so, dipende in quel momento come ti girava la testa. No, cioè, tu hai detto che quando uno entra in casa tu tranquillo. Li spari sempre. Stai tranquillo, allora, io non sparo a nessuno. Chi ammazza? Io non sparo a nessuno perché non ho nulla con cui sparare. Chi ammazza la moglie e i figli prende 30 anni e io invece da privato posso applicare la pena di morte. È stupenda sta cosa. Ma devi stare tu devi stare tranquillo. Io non ho capito questo qui. Tu sei favorevole alla pena di morte? No, non sono favorevole. Non sono favorevole. E allora perché sei favorevole? Tu la stabilisci la pena di morte? Quando ti entra in casa una lo stabilisci tu la pena di morte? No, ma lui mi sta attaccando perché io ho detto che per me va bene, infatti adesso espongo tu hai detto che si può sparare sempre. Allora, sti due ragazzini io li potevo ammazzare? No, non lo so, dipende, i due ragazzini. Ma come dipende? Ma non è che potevi? Ma quando uno ti entra in casa bisogna sparare, gli hai detto sono tre mesi che dici ste cazzate qua. Allora, Lucio, devi stare tranquillo. Allora, sei esagitato. Sei esagitato. Tu privatamente applichi la pena di morte. Sei esagitato. Ma che esagitato? Sei un po'. Fai venire i coglioni tutte le sere, sei un fascista. Sei un fascista. Sì, benissimo. Allora dicono che non c'è più la destra e la sinistra. Tu sei il simbolo della destra fascista. Sì, non c'è dubbio. Sei il simbolo della destra fascista. Non è sei così per i casini, per l'apertura delle puttane, no? Poverine sfruttate dai cinesi, dagli albanesi. I cinesi no? Non risulta, però va bene. Bisogna andare a puttane tutti. Ma non ho detto che bisogna. Imbecille, non ho detto che bisogna. Ma che imbecille, tu sei un coglione fascista. Sei un coglione fascista. Capito che sei fascista. Bisogna fare queste difficoltà. Idee che hai nella zucca vuota. Faccio tu difficoltà. Hai una zucca vuota. Faccio capito? Difficoltà. Allora, caro signore Lucio, io ho detto una cosa molto semplice. Ho detto che se uno in casa propria sente un pericolo imminente di qualche cosa dentro la sua abitazione e se ha una pistola può tranquillamente sparare senza avere la rottura di coglioni dopo di essere accusato. Tu non hai detto proprio così. Ho detto tu così. Non hai detto come proprio ecco, così. Io ho detto che sono sei due mesi il mio che interprete. Vai avanti a dire che sei quando uno interprete. Entra in casa bisogna sparare. Ma non ho detto quando che bisogna. Ho detto se privata, uno vuole. Bisogna sparare. Libertà. No? Libertà quale di sparare. Pericolo? Libertà di cos'è sparare. Non dovere di sparare. Libertà di sparare. Libertà di sparare. Fatelo. Appunto, libertà di sparare. Tu applichi la pena di morte. Tu applichi la pena di morte. Non è proprio la pena di morte. Che questo ti possa far male. Senti, cretino, non è la stessa cosa la pena di morte dello Stato e la difesa personale all'interno della casa. L'hai capito o no questa distinzione, no, imbecille? Tu applichi la pena di morte. Lo ma io non applico nessuna pena di morte. E tu la applichi, perché tu se tu stabilisci, perché tu non è che il problema che... Amico mio, che, qua che tu... si spara anche di giorno. Guarda qua questo cartello, non lo puoi guardare in webcam. Sì, tu... Caro Parenzo, guarda, qui si spara anche di giorno. Ti trovavo in camera. Qui si spara anche di giorno. Avevano il coltello, avevano il coltello. Io li ammazzavo tutti e ma due. Io non lo so e se tu eri contento, se no? Tu eri contento, se due ragazzini di 15 anni. Ma io non ero due contento. Ragazzini di 15 ma io anni. Non lo so, i ladri che abbiano 15, che abbiano 20, che abbiano 30, sempre ladri sono. E sì, potrebbero sì, anche, certo, potrebbero anche non essere ladri. Che è meglio ammazzare. Non è bello, bambino, non ho mai detto cretino, non ho mai detto che è bello. Imbecille, non ho mai detto che è bello, cretino. No, ma non è bello, hai detto che è la stessa cosa quando hanno ammazzato i bambini in Siria. Tu hai detto perché vi lamentate tanto perché ammazzo io ho mandato un messaggio a dire ma tu non lo so, preferisci che ammazzano tuo figlio o il vicino comunque di casa che ha 90 anni? La maggioranza silenziosa anche nel suo piccolo alle volte si incazza, quindi in avanti tutta. No, che quindi senso? Io non l'ho capito. Non posso mettere il cappello su questo straordinario appassionato intervento perché era un po' eccessivo. Va bene così, avanti tutto. Ma qual è eccessivo? Ma qual è eccessivo? Hai un fascista di fianco. All'attacco. Ma sei un cretino, sei un poveraccio. Sei contro i fascisti. All'attacco. A testa Basta mai mulà, via i fascisti dalla radio. All'assalto, amico mio. Fatevi sentire, impugnate le baionette pacifiche. Fermo, baionette pacifiche. Fermo. Dai, grasso. Dai, zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Dai, grasso. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, mi sono rotto i coglioni del giochino infantile di Parenzo, Piacere Parenzo. Istruzioni per l'uso da seguire se si vuole offendere Parenzo. Si dice coglione. Quello fa Piacere Parenzo e uno risponde: no, guarda, ti chiamavo per nome. È chiaro? Grazie. Vabbè. Va bene. No, perché ogni volta tu rispondi in questo modo. Va e bene. Dunque, giustamente, questo ascoltatore sta consigliando qualcuno che ti vuole insultare, questo ti vuole attaccare. Lo dico io. E questo ti vuole dietro questo, sì. Dietro questo c'è, sì, una mano. Chi è? Cioè la mano assassina che ha dato la pistola in mano a questo qui si, sì, chiama la corte. Ma che c'entra la corte? L'assassino vero, cioè il nemico del popolo, avrebbe detto Mario Capanna, è la corte. È lui che arma, no? Mettendo in onda queste voci viscide, schifose, violente. È lui. Ma che c'entra? Non frugate. Sai come diceva Concetto Marchesi, il grande partigiano? No, non frugate, ti prego, nelle memorie, nei nascondigli del passato, i soli responsabili di episodi delittuosi. Dietro a quei sicari c'è tutta una moltitudine che quei delitti ha coperto con il silenzio e la codarda rassegnazione. Ma la mano arma, chi arma? Armato lo sparo, sì, è la corte, il regista, la corte. Ascoltami Parenzo, mi stai sulle palle. Sei anche un ebreo. Vedi chi è? Devo dire la verità. Vedi chi è che sceglie? Quando la Lucia dal camper di Codroipo, la prostituta Lucia, dici che sei proprio un ebreo. Se lo dice in lo dici in una maniera talmente straordinaria. Cioè ti disprezza, no? Sì, è sprezzante, insultante, diciamo anche un po' razzista nei confronti degli ebrei, che però fa quasi tenerezza quando dice sei anche un ebreo. Cioè lo dice proprio con un astio incredibile. Però stavamo parlando con questo signore, Lucio da Verona, il quale mi accusava, incredibilmente, mi accusava di essere un fascista, semplicemente perché dico che uno si può difendere in casa propria come vuole. Tra l'altro qui ho anche un cartello, caro Lucio, mi stai ascoltando o no, Lucio? Sì, ti sto ascoltando. Eccolo qua, qui si spara anche di giorno, qui si spara in questo luogo, che non è né casa mia, dunque non potrei sparare, per carità, quando comincerò a prendere delle lezioni potrò sparare solamente in casa mia in caso di pericolo, naturalmente, ecco, dovrei appenderlo a casa. Qui si spara anche di giorno, chiaro Lucio? Si spara anche di giorno, non si capisce... Cioè, tu applichi la pena di morte, tu la applichi. Basta con questa stronzata, basta. Ma come la stronzata, Merri, sei ridicolo, sei un personaggio ridicolo, dai, su. Ma ancora come ridicolo? Sei tu che sei ridicolo e bisognerebbe smontarti e rifarti di nuovo, perché tu sai, sì, cos'hai? Tu, io rimango sempre stupito, sì, che tu... Che tu tratti i problemi della povera gente, di, sì, gente più disperata, in modo così superficiale, no? Sì. Come quando parli delle prostitute, no? Sì. Non conoscendo aridaia con queste prostitute, tutta la mafia, aridaia con queste prostitute. chiude, aridaie. Tutta la mafia albanese, tutta la mafia cinese che sta dietro a queste povere ragazze violentate. Perché sei fissato con i cinesi? E per te è giusto andare a sfruttarle, per te è giusto. Ma no? Sei il primo ad andare a puttane, tu. Sei il primo ad andare a puttane, tu. Ma non dire sarai cazzate, il primo ad andare a puttane. Hai la voce di un puttaniere. Ma non dire che hai la voce di un puttaniere. No, io ci sono due volte in vita mia, l'ho detto. Tu hai la faccia da puttaniere, lo si vede. Io la faccio, bravo ragazzo, ma tu hai la faccia da puttaniera. Grazie. Sì, guarda, come Vito, si fa ad attorto però un pacato ascoltatore così? Cioè, sera, no? Quando hanno ammazzato quei bambini si dà. Perché sì, tu veramente no, bisognerebbe smontarti e rifarti. Ma cosa ho nuovo detto? Capisci, Cruciani, come faccio a dargli torto? Tu sei nato, ma capisci come faccio a dargli torto io a questo qui? Per me mi è difficile, ma infatti no, ti sto dicendo che mi è difficile. Ma cosa ho detto? Ho detto che uno si può difendere dentro casa. Ma cosa vuoi da me? Tu non hai detto così. Allora che io ti seguo tutte le sere. Le sere hai detto che quando uno entra in casa di un altro sì, si può difendere, calma, calma, e sparare, basta entrare, certo, basta normale, entrare in certo, casa, assolutamente sì. Se, allora, se entra uno sconosciuto, due ragazzini, se avessi avuto allora, 15 anni in casa mia, dovevo ammazzarlo. Amico mio, se tu avessi avuto paura in quel momento e avevi una pistola in mano, potevo magari ammazzarlo. Sì, potevo potevi ammazzarlo, tranquillamente sparare, non ammazzare per ma forza, sparare. Sparare. Sei matto da legare. Ma sei matto da legare. Io sarò anche matto da legare. Sarò anche matto. Una società. Tu non vuoi una società che è incredibile, capito? Tu sei un violento per natura, i fascisti sono tutti violenti. Ma fascismo di cosa? Sai che io non riesco a dargli torto, però. Sei figlio del coglione di Trump, figlio del coglione di Kim Jong, di Kim Jong. No, Kim Jong, dettagli, la sostanza ha ragione. Del coglione di Salvini, tu sei figlio di questa mentalità, capito? Per cui Salvini è un coglione. Salvini è un coglione. Dove i miei bisogni, i tuoi bisogni devono essere completamente liberi, no? Io posso andare a puttane, io posso ammazzare chi voglio. I miei bisogni. È la libertà questa! Tu non sai cos'è la libertà! Non sai cos'è la libertà! Non sai cos'è la libertà, chiaro? Non sai cos'è la libertà! La libertà è andare con una che è violentata e sfruttata dalla mafia albanese. Questa è la tua libertà. Non lo so io se è sfruttata la mafia albanese. Scusa, amico mio, tu quante volte sei andato? Ma che c'entra il fascismo con le puttane? Io non riesco a dargli torto, però, a questo qua. Tu sei un altro cretino. Non riesco. Cazzo, ma che c'entra? Cazzo. Posso, capito, dirti, Lucio, non scusa, dargli torto. Però io voglio dire, sai che non riesco a dar torto a Lucio. La società che hai di fronte. Sì. Tu non conosci la società che hai di fronte. Scusa un attimo, amico mio, capito? Io voglio dirti una cosa, Allora, tu sicuramente nella tua vita ti sarà capitato di andare con qualche prostituta. Sicuramente. No, non ci sono mai andato, perché non ho fatto nemmeno il militare. Si comincia quando si va a militare, ecco, andare a prostitute, no? Avevi qualche problema? Sicuramente avevi qualche problema. Sì, no. Non hai fatto militare perché avevi fatto. Sapevano che dovevo telefonare a te, allora mi ha detto meglio lasciarlo a casa. Mi sa che non hai fatto militare perché ti hanno trovato qualche problemino, amico mio. Ma che cazzo, okay, ma che problema? Qualche dice, problemino? Invalido, qualche problemino? Qualche problemino allora, tuo, no? Tuo padre, tuo? Qualche problemino tuo? Vabbè, io? L'hai sfangata a militare, hai fatto il paraculo, dai, hai fatto il paraculo. Sì. Hai fatto il paraculo. Perché tu l'hai fatto e sei andato a puttane. No, io a puttane sono andato molto dopo, non ci andavo quando andavo al militare, non ci andavo. Ci sei andato dopo? Dopo, sì, tre volte. Ma a te non te ne fregava un cazzo, però, se questa ragazza era un bordello, era un bordello. Stata non lo posso, Italia, non è compito mio, non è compito mio, non è compito mio, non è compito mio, se ne occupi la polizia. Ciao amico mio, ciao. Hai la compito della polizia. No, tu invece se ne occupi la polizia. A posto. Io sono tu a postissimo, a posto. Sono a postissimo, sì. Non mi sento certamente una persona moralmente riprovevole perché sono andato a puttana. Sì, mi dispiace. Basta sfogare i tuoi bisogni. Ma tu sei a posto. Ma che vuol dire? È la società che vuoi. Questa è la società bravo, che vuoi tu. Ciao Lucio, ciao. È la società ciao, che vuoi tu. Ciao, non riesco a dargli torto. Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. Io uso il preservativo, cazzo! Io uso il preservativo, Sgarbi non lo usa. Francesco dalla provincia di Ravenna, vai Francesco, vai. Francesco. Sì, sono qua. Dimmi sentite. Francesco, dimmi. No, ma niente, l'unica cosa volevo confermare che anche secondo me sì, il conduttore, che non mi ricordo come si chiama. Ma non fare il coglione, dai, forza, su no. Francesco, dai, non fare il cretino, no, dai. Volevo confermare che anche secondo me è un sì, emerito coglione fascista. Sì, che sarei io poi. Io chi? Io, Cruciani, sì, sarei io. Ah, ok, sì. No, sì, però volevo fai il paraculo come viene a rubare a casa dei ladri con me. Sì, Se viene a rubare a casa dei ladri. No, l'altra cosa, però volevo dire anche un'altra cosa, che anche chi, anche la tua spalla, secondo me, è un emerito coglione, perché se... Piacere, buonasera, spalla, grazie per aver chiamato intanto. Allora, Francesco, io non ho capito cosa vuoi, oltre a dirci che io sono un coglione fascista, quell'altro pure è un coglione, cosa vuoi? Vuoi qualcos'altro? Voglio dire che secondo me... Siamo due coglioni, e perché sarebbe un coglione? È un coglione perché fa da spalla a te. Vabbè, poi, dopo aver detto queste cose, ti senti soddisfatto? Se fosse una persona onesta, non sarebbe lì a fare da spalla a un fascista. Sì. E perché sarei fascista? Io spiegami. Perché sarei fascista? Beh, questo è un credino. Luca da Roma, vai, Luca. Luca. Buonasera, dimmi. Io credo che No, ma non parli così. Devi alzare, devi togliere viva voce, devi togliere l'auricolare, fai quello che ti pare. Non c'ho auricolare. Bene. Credo che per giudicare il nano di Padova non c'è bisogno di istruzioni, perché il nano di Padova stronzate le dice a livello industriale, le produce giorno in continuazione. In quantità stasera... industriali, direi, visto che parliamo di Confindustria. Sì. Bravo, Confindustria, produttore stasera, di in qualità stasera, industriale, esatto. Stasera ne ha detto un altro. Tipo che ha detto? Un altro. Sono innanzitutto antifascista e sono anche però anticomunista. Sono praticamente contro tutte queste due. Allora che c'entra? Scusami, spiegami. È perché lui stasera praticamente si è messo di dire che chi porta il cognome Mussolini praticamente dovrebbe farci un pensiero. Parenzo ha detto così, che si vergognerebbe di chiamarsi Mussolini. No, ha detto. Per dare una cosa evidente, no? Ma lei si vergognerebbe, ma lei, voglio dire, lei, a lei piacerebbe di più chiamarsi. Lei come si chiama di cognome? Mussolini. No, lei. Mussolini. Ma figurati se ti chiami Mussolini. Ma mi chiamo Mussolini. Adesso, a questo punto. Adesso, scusami, ce l'hai WhatsApp? Ce l'hai WhatsApp? Ce l'hai WhatsApp o no? Come facciamo a sapere che ti chiami Mussolini? Mi chiamo Mussolini, se ci credo pure, ma ci puoi anche non credere, perché il concetto che voglio esprimere è indipendente dal fatto. Ho capito, però chiamarti... se dici di chiamarti Mussolini è una cosa. Non sarebbe meglio chiamarsi Calamandrei, parente, ad esempio? Non sono parente di Mussolini. Ma no, capito, ma provi a pensare, chieda di cambiare cognome, Calamandrei e Inaudi. Mussolini. Tornando all'aspetto, ma a quel punto è meglio cambiare radicalmente Calamandrei, no? Ma pensi come cambia, pensi come potrebbe cambiare la sua vita, Matteotti. Appunto, Matteotti, ma Calamandrei, bellissimo. Come si chiama lei? Come si chiama il nome di battesimo questo qua? E qual è la proposta? Come si chiama di battesimo? Come si chiama questo qui? Luca Calamandrei, bellissimo, dai, meraviglioso. Una commissione di esperti di coefficienti di intelligenza. Ecco, lei è già fuori. E raffrontiamo l'intelligenza del nano di Padova. Lei con è già Mussolini. Fuori. Ma poi perché nano? Va bene. Questo che non capisco. Fermo lì. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luciani, non importa se vieni in spedizione nei nostri bagni, tanto noi non smetteremo mai di ascoltarti. Pagato dai rom. A proposito di genialità italiana, si sono inventati a Torino, Parenzo, mi hanno comunicato delle persone che evidentemente usano questi servizi, un sito che ha come titolo scappatelle, no, affittibrevi.it, una cosa di questo tipo. Com'è che si chiama questa roba qui? Aspetta, no, scappatellaveloce.it. Scappatellaveloce.it. Cioè, praticamente tu affitti delle stanze, affitti, sì, delle location. D'accordo. Esplicitamente per trombare. Ah. Location per trasgredire. Tu dai sempre informazioni, no? Beh, potresti fare il trip advisor del sesso. Imprenditoria italiana al lavoro. Imprenditoria italiana al lavoro. Non la definirei. Hai mai sentito il bisogno di avere un momento di privacy o di relax tutto tuo? Sì, vuoi trasformare la pausa pranzo in una pausa di passione? Oggi è possibile. Un vero appartamento è a vostra disposizione ad ore. No, ma non dottore, bella pausa pranzo, mangia salmone col taltine. Un vero appartamento è a vostra disposizione ad ore per farci quello che volete, nel rispetto della vostra privacy. Vabbè, beh, quello ci mancherebbe pure che dicessero qualcosa in giro. Gli appartamenti sono accessoriati con tutto il necessario. Bene. Se vuoi puoi anche cucinare, scappatellaveloce.it. Sembra, siccome è a Torino questa roba qua, sembra che la cosa però sia... Questi luoghi siano molto frequentati soprattutto dai funzionari di banca, così mi dicono. Indagate, sì. Sandrino D'Asti, vai! Sandrino! Sì, eccomi! Dai, eccomi qua! Dimmi, Sandrino! Allora, volevo intervenire e fare un punto su quanto riguarda quel disastroso caso che è successo a Roma. Che è successo? Ah, sì, i Rom. Che è successo? Sì. Hanno dato fuoco ai Rom. Che sì, hanno dato fuoco ai Rom, sì, a una roulotte dove c'erano sono dentro... morti tre bambini, tre ragazzi. No, due bambini e un ragazzo di 20 anni, sì. Vabbè, sei ragazzi. Premetto che mi dispiace tantissimo per le vittime, specialmente. Vabbè, allora sì, però di non diciamo banalità, mi dispiace. Cioè, dispiace a tutti. Premetto che non sono razzista, però. Vabbè, questi qui sono. Sono personaggi ingestibili. Io sono qui nella piazza, vivo ad Asti. Abbiamo un gruppo in questa piazza qui di Rom che ne hanno fatte di tutti i colori, polizia, vigili, sì, non riescono, sì, ad allontanarli, dicono tanto non gli possiamo fare niente, e loro la fanno da padroni, ti ridono, cioè ti vengono dietro. È la realtà, Parenzo, tu la vuoi negare, ma la realtà è quella che ci descrive Sandrino. Cosa vorrebbe la realtà? Su? No, la realtà è quella che ci descrive, non c'entra niente col fatto, certo, di appiccare fuoco ad una roulotte, mi sembra evidente. L'impunità è la loro forza, Questi qui escono, vanno nei negozi, fanno del terrorismo, rubano. Ma non possiamo negare, non possiamo negare che in quella roulotte c'erano troppe persone, però. Non possiamo negare che, ovviamente, ma non c'entra troppe niente. Persone, ma non vuol dire niente, ma che vuol dire troppe persone? Sto dicendo che i bambini erano ammassati dentro una roulotte, nessuno è intervenuto prima. Nessuno è intervenuto prima perché quella roulotte era lì. Perché quella roulotte era lì? Chi se ne è interessato? Chi se ne è occupato? Poi perché se non te so? Ne interessi, dici: ah, vi occupate di trovare collocazione. No. Ragazzi, oggi c'è soltanto una tragedia: trovare chi è stato, sia esso uno interno per vendette della comunità rom, non lo so, sia esso un esterno. Sono morte tre persone intanto, su no, rom, non c'è dubbio, ma... che c'entra. Basta, fine. Vabbè, allora Sandrino, che vuoi dire con questo? Sono ingestibili allora? Sono ingestibili questi qui, ovunque vanno, seminano del terrorismo, entrano nei negozi, cioè bisogna essere in 10 a guardarli. Diciamo la verità, a te il fatto che siano morte queste tre persone non te ne frega un cazzo, diciamola tutta. Ma non è che non me ne frega un cazzo, non è che purtroppo io li subiamo. E allora? Io una sera, per fare un esempio molto stupido ma significativo, sì, vengono in una mia attività qua, mi rompono un vetro, sì, ma così per fare un dispetto, mica neanche per rubare, perché sono sulla strada. Vedo dalla videosorveglianza, vedo chi è stato, sono questi qui che distano dalla mia attività una trentina, 50 metri, facciamo così, chiamo i carabinieri, gli faccio vedere il video, loro, i carabinieri arrivano e mi dicono: che cosa vuoi che facciamo? Anzi, mi dicono: ma non ci chiamare nemmeno, tanto non gli possiamo fare niente. Sì, però che legame c'è tra quello che ci stai raccontando e il fatto che qualcuno butta una bomba o incendia il popolo, se ne ha le scatole piene dell'impunità. Ecco, vedi. Cioè, tu stai dicendo che quelli che hanno dato i bambini, ma se no le palle piene. Cioè, tu stai dicendo, ma io qua là volevo arrivare perché ho capito il tuo discorso. Tu vuoi dire che quelli che hanno dato fuoco a quel camper era gente esasperata? Questo vuoi dire? Ma per forza, è incredibile. Ma per forza cosa? Ma per forza cosa? Ma perché te le scatole piene? Ma cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Ma che gesto è? Ma che vuol dire che giustifichi hanno le scatole piene? Ma io ho le scatole piene di sentire ste minchiate. Ma mettitene quattro in casa tua a vedere come riesci. Ma che vuol dire? Basta con sto ragionamento, mettitele a casa tua. Ma che discorsi sono? Vai all'attacco, Davide, vai all'attacco. Mamma mia. Vai all'attacco. Persona, no, ma non c'è da attaccare, c'è da dire che questa è una persona schifosa, questi come quelli che scrivono sul forum del giornale o altro. Qui in Piemonte, lo sai, ma che no, ma io so che cos'è noi, lei per loro siamo i fessi, noi per loro siamo dei fessi. Lei sta parlando di una cosa che oggi non c'entra nulla. Sono morti tre o due bambini e un ragazzino di 20 anni. Tutto bene, quello che lei dice oggi rosario, è una minchiata. Non c'è rosario da fare, c'è il suo silenzio che sarebbe già troppo oggi. Guardi, un bel silenzio non fu mai scritto. Lui ha detto anche un'altra il cosa. Suo oggi. Il suo oggi purtroppo non ci è pervenuto. Lui ha detto un'altra cosa. Lui ha detto una porcheria. Che probabilmente le persone che hanno appiccato fuoco sono persone esasperate. Non sono persone che ne hanno i coglioni pieni dei crimini commessi dai Rom. Per forza, magari sono semplicemente dei criminali. Anche se fossero. Anche se è gente che si ribella. Come ci vuole del coraggio? Non ho capito. Ma ci va del coraggio andare in un camper e dargli fuoco. Ci bisogna anche dare un certo pelo sullo stomaco. Ma certo che saranno anche dei criminali. No, ma sono solo dei criminali. Sì, certo, ma non è che l'avranno fatto così, stasera facciamo questa cosa qui. Tu dici per gioia, perché qualche ragione ce l'hanno. Ma probabilmente sì, se non hanno qualche ragione è un caso. E che ragione c'è di uccidere tre persone? Ma non c'è nessuna ragione. Quale può di essere? Avranno dato quale può essere la grande ragione che porta a uccidere tre persone, due bambini? Quale può essere? Intanto lei è un coglione. Intanto, diciamo questo, intanto, per mettere le cose a posto. Cosa? Poi possiamo intanto che non ho capito. Intanto è un coglione questo che parla. Intanto. Sandrino, perché ride? Ride perché poverino, la sciagurata rispose perché poveretto. Poverino. Vabbè, ciao Sandrino, ciao. Perché Giovanni dalla provincia di Foggia, vai Giovanni. Ridi. Giovanni, ride. Vai, ciao Bruciani, buonasera. Ah, questo è un altro. Chi è un altro. Se non mi ricordo male, un altro. No, il fascista. Un altro. Hanno aperto fascista. Le fogne oggi. Allora, cosa è successo? No, sono saltate le fognature. È democratico per la società. Sì. E che è successo? Sono saltate le fognature oggi. Che è successo? Chiama l'idraulico. Che è successo? Allora, voglio mettere in chiaro per quanto riguarda Voglio mettere in chiaro. Chi sei? Il prefetto? In Italia è uno schifo. Che vuol dire? Okay. Che vuol dire? In Italia senti, è uno schifo. Perché ma 90, questo va detto comunque. Perché per le piazzole, per le strade è uno schifo. È uno schifo. Tra prostitute e froci è uno schifo. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che la prostituta La prostituzione si deve fare in casa, sì, perché vabbè. Se tu vai in Germania, tu lo sai che vai andando in Germania, in Olanda, in Spagna, si fa nel privé, ok? Si fanno vai in Olanda, ci sono le vetrine, vai dentro, chiudi la vetrina e nessuno vede niente. Vabbè, okay. Allora che vuoi dire? È uno schifo. Dunque, voglio dire che chi vuole tartassare chi va a prostitute deve eliminare prima le prostitute per la strada. Vabbè, i d'accordo, froci, ma i froci che c'entra i froci adesso? Sì, i froci per la piazzola di sosta non devono stare, perché quando io mi fermo a dormire con il mio dir che ho fatto le mie ore di guida, devo riposare, non essere rotti i coglioni da chi ti viene a bussare. Io lo sai che ti manderei una spedizione di froci. Dimmi la prossima piazzola dove Che cosa vuoi mandare? Che io ho girato fino a ieri, ho girato per l'Europa. Dimmi una piazzola dove vai a dormire tutte e io le ti piazzole in Italia. Tutte io ti mando una spedizione di homosex. Ma cosa vuoi mandare? Tu sei un povero Cristo che non capisci un cazzo. Ma che c'entro adesso io? Scusa, che c'entro io? Ma che cosa vuoi mandare se tu ti mando una spedizione a disturbarti? Ma cosa vuoi mandare? Una spedizione solo a disturbare il tuo sonno. A casa tua a sole 24 ore non giri per l'Italia, non giri per l'Europa, non capisci niente. Cosa vuoi mandare? Ma queste io ti devo mandare a te. Ma che mandi? Ma che mandi, Giovanni? Tu che cosa vuoi mandare? Io non ho capito con questo tiro, dove ti sei fermato in questi giorni? Spiegami. In ogni piazzola che mi E che è successo? E cosa è successo in queste piazzole? Ancora queste piazzole? Io non posso esercitare più il mio lavoro per questi disguidi qua. Per questi disguidi. Per la strada, vedi tante di quelle prostitute. Ma che c'entra con le piazzole? Che c'entra con le piazzole? Oh, Cristo, tu fai l'indiano quando la cosa non ti piace, fai l'indiano, vai a fare in culo, Beppe. B- Ma cosa? Deve essere obiettivo nelle cose. Sei un obiettivo. Ma non ho capito questo che cosa vuoi. Ma ridi, che ridi. Giovanni. Ridi in bacio sta la goccia da palo. Ma cosa vuol dire? Cosa ha detto? È un'espressione foggiana, evidentemente. Ah, ho capito. Un'espressione foggiana, Giovanni. Sei ancora lì? Quel nano che c'è a fianco, che cazzo parli? Io con quello non ci voglio parlare. Ah, ce l'ha con me adesso questo. Sì, sì, ah, ha finito con te, ora ce l'ha con me. Prego, Giovanni. Io sono anticomunista. No, ma lei è serione. Lei è semplicemente un comunista. Con i comunisti, con i partiti democratici, sì. non ci voglio niente. Mi dà retta a me. Lei non è che è anticomunista. Sì, ho capito che lei è un coglione. Non voglio nemmeno sprecare il fiato. Mi dà retta. Lei non è che è anticomunista, antifascista. Lei è semplicemente un idiota. No, io sono fascista per me e sì, democratico per la società. Vabbè, lei è un idiota. Lei è un idiota. È un idiota. Tu sei un idiota. Fidati. Io non ho chiamato per parlare con te. Idiota. Però purtroppo deve parlare. Io parlo fino a quando mi pare. Scusami, Giovanni. Capito? Io non ho capito una cosa. Giovanni da Foggia. Dalla provincia di Foggia. Detto l'idiota. Tu sei un povero in provincia di Foggia ti chiamano l'idiota. Ti chiamano l'idiota. Che vuol dire indulgenza? Capisci cosa vuol dire indulgenza? No, sai che come ti chiamano? Sai che cazzo è indulgenza? Che vuol dire che gli manca l'indulgenza? Che dialetto è? Indulgenza, ma che cazzo di scuola hai fatto, Peppe Cruciani? Scusami. A te ti chiamano l'idiota lì, ma non parlano di Dostoevskij, non parlano di quel romanzo lì, parlano di te, dell'idiota Giovanni da Reggio di Foggia. Sei conosciuto. Ma che c'entra? Una volta sono quella merda di bandiera, forse e martello, tagliava la stella, il resto della bandiera la andava a mettere sotto il culo delle mani. Ma cosa? Ma bravo. Che bravo che sei. Io sono venuto mesi fa quando cagava la vacca che faceva la loppa, riempiva tutta la bandiera. Bello, fine. Bello. Qualche mese settimana fa sono venuto in provincia di Foggia. Tu conoscete l'idiota? Ah sì, Giovanni, certo, sta là. Che la Costituzione italiana ma che c'entra? È stata firmata dai comunisti nel 78. Certo. Ma che c'entra? Nel 78, insomma, 48, però messi i piedi perché ci ritroviamo in questa merda. Molto semplice. Vai in provincia di Foggia, chiedi dell'idiota, ti segnalano casa di Giovanni. Ma sì, ma stai tranquillo. Comunisti di merda. Aspetta un attimo, fermo. È il top assoluto. La Zanzara. Allora, il camionista Giovanni dalla provincia di Foggia ci sta facendo una lezione di diritto costituzionale italiano, storia anche, di vita reale, con la storia delle piazzole ancora frequentate dai gay, che lui rompono i coglioni, ma a me risulta che questa storia sia finita, Giovanni. Che non finisce mai. Io sono convinto che a te poi piace particolarmente, è una cosa che ti piace. In fondo, tu sei un po' gay. Ma a te ti piace prenderla a quel posto? Tu sei un po' gay, in fondo. Io sono gay. C'è una parte di noi. Manda la tua donna da me, poi te lo faccio vedere. Ma questa è una battuta facile. Allora vieni tu a verificare. No, ma c'è una cosa molto semplice. Lo faccio per sprecio. No, ognuno di noi. La bocca. Sei tranquillo. No, devi stare tranquillo. Stai tranquillo. Però secondo io me. Giovanni, non mente. No, ma non è. Io stavo dicendo una cosa seria. Ognuno di noi ha una sua parte gay. Ma vai a fare in culo, ma dentro di noi c'è una parte omosessuale, caro camionista amico mio. Ognuno di noi ha una parte frocia. Vai a cagare un altro il macio, non tirare fuori il petto. Vai a cagare un altro. Ognuno di noi ha una sua parte omosex. A me mi piace solo la figa e basta. Ma ho capito, amico mio, però lo sappiamo, però guardati dentro bene, guardati dentro l'anima. Guardati dentro, osservati bene. Che io non mi so guardare. No, osservati, osservati professore, prof... vieni tu, No, ma osservati profondamente e ritroverai e ritroverai una tua parte profondamente omosessuale, profondamente. Quale parte c'hai tu? Ma io sono convinto che tu hai una parte omosessuale. Sono convinto che alla fine il maschio ti piace, il maschio. Sono convinto che ti piace perché è normale, perché è normale che ognuno di noi. Te lo dico molto seriamente, ma è un discorso. Tutte le sere di questi discorsi qua, perché tu vai a letto con i gay, anzi vai a letto con quelli che ce l'hanno bello, eh? No, scusa Giovanni, però abbia pazienza. Però come si fa? C'è una parte dentro di te, Giovanni il camionista, quello che fa il duro, quello che gli dice mi piace la figa, queste robe qua, ha una sua parte femmina, una sua parte femminea, capito? Che esce fuori chiaramente da questi discorsi, la tua parte femmina. Parlare così ce l'hai tu. No, ma c'è una parte, quando per esempio di notte ti bussano quegli omosessuali in una piazzola. Lasciami dire e vedrai che ho ragione. C'è questa piazzola, tu ti metti a dormire, in realtà tu aspetti quel toc toc toc toc, tu lo aspetti, poi hai pregiudizi. Una cosa, ho fatto 13 anni all'estero e questo schifo che sta in Italia non c'è. Perché se vai in Germania, tu non trovi le piazzole di sorte o i parcheggi privati dove ci sono le prostitute o i riccioni. Se vai in Francia è la stessa cosa, solo in Spagna ci ma sono. Ma tu lo sai che potrebbero accusarti? Diciamo che vai là, te la scegli. È tutto regolare. Tu lo sai che potrebbero accusarti, ma magari in macchina, anche quando tu c'hai la tua ragazza, atti di osceni in luogo pubblico, non è che puoi comunque fare il cazzo che ti pare. Comunque, amico mio, io non ho capito. Perché se quella Imola ho fornito, io non ho ancora capito. Gli hanno fatto la multa, hanno fatto bene, perché in macchina non si possono fare. È arrivato il moralista che dice che in macchina non si può fare niente. Ti dico una cosa, a Sorrento, la roulotte tutta chiusa, ermeticamente chiusa, la roulotte che si muovevano, scopavano, facevano l'amore. Nessuno l'ha potuto dire. Ma dove? La piazzola? Dov'era? Alla piazza di Sorrento. Ma qual è la piazza dove tu hai trovato alla più? La piazza principale di Sorrento. No, ma lascia perdere la piazza principale, voglio capire. In autostrada, dov'è la piazzola quella più calda? Qual è la piazzola? Tutte le piazzole. Mamma mia, c'è l'invasione. Invece dell'invasione degli alieni, c'è l'invasione dei gay, amico mio. Ma tu vai a Padova. Tu sei profondamente. Perfino dopo Palermo. Profondamente frocia. Tu sei profondamente frocia. Giovanni dalla provincia di Foggia, lo voglio dire a tutti i camionisti che sono in collegamento. Tanti camionisti, Giovanni, provincia di Foggia, TIR, numero, dimmi il nome di un TIR. A te piace un pesce negro. Giovanni dalla provincia di Foggia è profondamente frocia. Camionisti in giro, Giovanni, provincia di Foggia, TIR, numero, dimmi il numero del TIR. Dimmi il numero del TIR. È profondamente frocia. A te piace prendere in bocca. No, adesso mi pare veramente eccessivo questo. Fermo lì, ciao. Viva i fraci, viva i fraci. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Sono sette anni che ascolto la zanzara in diretta o in podcast e sono diventato una brutta persona, bruttissima. Cerco le prostitute nel camper, in bicicletta, in motorino, sui viali, frequento i bordelli della Svizzera e della Croazia, poi prendo e dovunque trovo un lavandino ci piscio dentro, poi ancora guardo i trans in altro modo e cerco tutte le pornostar da invitare a cena. Poi mi domando, ma io faccio parte della maggioranza o della minoranza? La maggioranza silenziosa o la maggioranza che telefona? Non lo so, però so solo una cosa, Parenzo, vaffanculo. E questa è una vergogna! È una vergogna! Allora, caro David, eccoci qui. Eccoci qua. Sono carichissimo. Ti faccio sentire perché farà caricare anche te. Mi pare che sia carichissimo anche Ferruccio De Bortoli. No, però, esatto. So che ti carichi con queste cose qua. Da morire, mi carico. Ti faccio caricare col signor De Bortoli. Come mi carico? Col signor De Bortoli contro la Boschi. Quando De Bortoli dice colleziono querele, speriamo che arrivino. Una grande lezione di giornalismo. Ma perché ti carichi con queste cose? Perché ti carichi? Ecco, mi fai proprio fisicamente. Hai un orgasmo. Hai un orgasmo. Sì, se vuoi ti dico sì. Guarda, non faccio intervenire neanche la Filippina. Sì. Sì, sì, proprio mi piace De Bortoli, da morire. Quello che dice De Bortoli, non De Bortoli quanto De Bortoli, mi fa venire un orgasmo. La sua, adesso, la sua come dire, netto, preciso, sì. Mai una parola in più. Preciso, netto. De Bortoli, dai. No, di questo libro che ho letto degli estratti come te, no, sui giornali. Sì, ma sì, anche sì. La modalità, dice, cioè, perché in questo momento comunque quello rappresenta ancora il potere, perché effettivamente rappresenta il potere. La Boschi, sì, certo. Beh, sì, è tutto. Che sì, minaccia querele, lui dice: esatto. Sono bene, qua. Arrivino. Ecco, ne ho qui. Già tante, sono sì. Qua. Colleziono querele, speriamo che arrivino. Ma anche il mozzo, dai, avanti tutta. Manda un po' di audio, su, manda un po' di audio. De Bortoli, dai. Sono assolutamente tranquillo sulle mie fonti. Ho scritto una cosa, era giusto che si sapesse. Credo che rappresenti una notizia, visto che siete tutti qua. Io ho più di 160 processi e quindi insomma, sono abbastanza abituato a difendere quello che scrivo, quindi sono abbastanza tranquillo. Io ripeto, non ho scritto di pressioni, ho scritto semplicemente di un interessamento della Boschi ai destini dell'Etruria. Senti, è bellissima anche la strategia difensiva. Sono tutte parole calibrate una per una. Esatto, no, ma senti la pacatezza con la quale vabbè, adesso dice, tu fai l'elogio. Sembra che sei Kim Jong-un. Ma mica che, ormai, cioè. Ma non allora, ho motivo, no, aspetta però, un attimo. Non è ti volevo far notare una cosa. Lui dice, non ho parlato di pressioni, certo. Solo di interessamento. Perfetto, sì, perché in questo modo smentisce quello che Unicredit ha detto, per quello che può interessare. Insomma, il board di Unicredit che dice no, ma non ci risultano pressioni, interessamento. Beh, amico mio, isolami per cortesia la parola interessamento, perché mi isola anche un po' di queste perché parole. È un orgasmo? No, isolami interessamento, bellissimo. Cioè, perché a me piace più il camionista della provincia di Foggia che non De Bortoli. Ragazzi, perché? Non so. No, ma perché? Me lo sai spiegare? No, devi chiedere al tuo analista questo. No, ma perché io provo questa passione irrefrenabile per un personaggio quello della provincia di Foggia di prima? So. Mentre queste cose di De Bortoli, sì, beh, va bene, sì, perché sì, però. No, ma l'altro tema che ti voglio porre, però senza farti ammosciare le palle, come diresti tu, amico mio, l'altro tema che ti voglio porre è perché in questo momento noi sapremo quanto conta il giornalismo in questo paese. Ma hai già fatto ammosciare, dai. No, ma è così, però. Bisogna vedere quanto conta l'opinione pubblica in questo. Cioè, quella è una notizia bomba, indubbiamente. Una notizia importante. Si dimetterà o non si dimetterà Maria Elena Boschi? Ragazzi, vabbè, mio, ma chi se ne frega? Ma stai dicendo una cosa banale. Questo è un banco di prova per vedere quanto conta il giornalismo in questo paese. Ma chi se ne fotte di quello che questa puttana? Apriamo i microfoni su questo. Ma apriamo, non gliene frega un cazzo a nessuno. Allora, a proposito della vicenda della Mussolini, questo pseudo scherzo che le hanno fatto, non credo che sia il Comune di Roma. Beh, amico mio, nel passato noi sul cognome Mussolini abbiamo dato parecchio. Abbiamo dato parecchio. Questa volta siamo innocenti, Let's start a war. Sì, buonasera signora, chiamo dal comune, sto cercando il signor Mussolini. Che cosa ha bisogno che ha letto in questo momento? Che non si... Per una questione di immagine, di decoro, il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi. Perché dovrebbe cambiare cognome? Non ho mica capito perché. Il cognome Mussolini è un cognome piuttosto, come dire, ingombrante. Ma perché devi cambiare cognomi, mica io? Io devo cambiare cognome. fai a chiedere come mai? Te lo spiega te, sì, che ne togli? Sì, brava signora, ecco, se no facciamo il telefono senza fili. No, perché non riesce a capire perché lui dovrebbe cambiare, perché lui non lo vuole cambiare, lui tu vuole tenere quello che ha. Ma non ha un telefono wireless? Aspetti un attimo che arrivo. Chi cazzo sei? Per telefonare a casa mia a dirmi che io devo cambiare il mio cognome. Allora, ma chi sei? Signor Mussolini, ma chi sei? Se adesso lei mi dà un attimino di tempo. Mi dà nome e cognome. E come no? E come no? Io mi chiamo Rinaldi e la chiamo dal comune, da Modena. E stiamo facendo una nuova campagna per tutti i comuni della provincia di Modena che cognomi che evidentemente creano qualche imbarazzo. Il suo, mi perdoni, signor Mussolini, ma crea. Il mio porta qualche imbarazzo? Sì, sì, evidentemente sì. Guardi che Mussolini ha fatto le pensioni, ha fatto le case popolari, invece voi stronzi li date agli extracomunitari. Ecco, guardi, voi no, stronzi. Moderi. Io non ho detto, io non ho mica offeso. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune, parlo col signor Mussolini. Sì. È disponibile a cambiare cognome? No, ho capito, ma lei chiama a casa mia dicendo delle illazioni. No, illazioni, non sono, no, mi perdoni, no, qua non ci siamo, non sono illazioni. Io le sto proponendo legittimamente un cambio di cognome. Io dico francamente, io non ho tanto tempo da perdere. Sì, sì, neanch'io se per quello lavoro. Lei non lavora perché se stava lavorando non ha tempo di chiamare un'utenza privata. Basta dirlo, non le fa né caldo né freddo, me lo dice. Lei non ha capito. Non ho capito. Mi io le sto dicendo che a prescindere dalla questione storica, noi questo cognome, io cioè, era a prescindere che era un personaggio famoso o meno, a me non fa né caldo né freddo. Pronto? Mussolini, un nome orribile, dovreste vergognarvi. Guarda, hanno già pubblicato in Facebook che c'è questa gente cretina che telefona per il cazzo, hai capito? Brava, brava, vergognatevi, certo, non si fanno queste sega, cose. Capito? Cosa? Farti una sega che è meglio, no? Vergognati. È un brutto nome! È un figa detto amare! Erbete de merda! Dimenticati questo numero, cretino imbecille! Si vergogni! Si ma vergogni! Ma certo che mi vergogno! E lei non sa la storia! Vergogni allora! Si deve vergognare! Erbete dei cazzo! Del cazzo! Richiama ancora questo numero! Ti seguo le gambe, va bene? E anche i coglioni! Però questi Mussolini sono irascibili, caro Parenzo. Combattono. Questi Mussolini sono irascibili. Noi abbiamo un appuntamento telefonico con sto cazzo d'Alessandro Mussolini che si fa trovare sta all'aeroporto. Con la signora Mussolini, sì. Sì, la signora Mussolini. Vabbè, anche personalmente simpatica. Come no, nonna. Ma assolutamente simpaticissima. Vabbè, molto cioè... se lo dico, adesso mi attaccheranno, lo dico, mi dispiace. Ma mi no, è molto la signora Mussolini deve simpatica sapere... anche perché è un irregolare la Mussolini. Ci ho fatto sempre delle grandi battaglie anche per le donne. Vabbè, sul femminismo. Cosa c'entra? Non c'entra niente. No, no, ma è una donna, è una irregolare, non è... Irregolare, questo insomma, è esageriamo. Irregolare. Sì, sì, assolutamente, cioè, non è inquadrabile nel centrodestra. No, è Alessandra Mussolini. Vabbè, dai, molto teatrale, dai. Mi sta simpatica, che devo fare? Alberto Dall'Aquila, vai. Ehi, ciao, dimmi, parlo dimmi. Con DJ Peppe? Sì, dai, dai, sì, su, sì, vabbè, dimmelo, dai, forza. Ciao, dai. Ciao, ciao. No, ti volevo dire una cosa, no? Tu sono tre mesi che fai campagna contro i Rom. Io non faccio nessuna campagna contro i Rom, dai, io faccio una campagna contro i campi Rom, è diversa dai, la cosa. Dai, Cruciani, tu fai la campagna contro i Rom. No, no, quella la fai tu la campagna contro qualcuno, io non faccio nulla. No, guarda, io ho già scommesso con i miei amici che entro due minuti mi dai del cretino. No, non ti sto dando del cretino, io ho semplicemente detto una cosa, io dico semplicemente che i campi Rom vanno smantellati. Non ho nulla contro i Rom, quando dico semplicemente che sono addirittura privilegiati rispetto agli altri, perché i bambini vengono tenuti in condizioni pietose, non fa nulla a nessuno, eccetera, eccetera. Perché lasci parlare le persone che vogliono dare fuoco ai Rom? Ma io lascio dovresti parlare tutti, anche te. Altrimenti... Ma questo lo dici tu, io parlo di quello, io faccio parlare tu, chiunque, libertà, chiaro? Libertà, chi, la libertà, chi si proclama hitleriano, chi si proclama comunista, chi sì, si proclama stalinista, libertà. Certo, assolutamente. Chi dice che vuole ammazzare quello, chi dice che vuole ammazzare quell'altro. Per me certo, è anche questa, è per me è anche questa la libertà, sì. Ma non dico che bisogna farlo per forza. Concetto, sto dicendo che qui è possibile farlo, e fino a prova contraria è possibile farlo. Poi ognuno si assume la responsabilità. Se non ti senti responsabile della decisione delle tre ragazze. Io mi dovrei sentire. Io dovrei sentirmi. Dovrei sentire responsabile di che cosa? Facciamo un'ipotesi. Ma tu sei fuori di testa. Facciamo un'ipotesi. Dimmi. Queste persone che vengono prese, che hanno bruciato, che hanno appiccato il fuoco. A parte bisogna vedere chi è stato e chi non è stato. Esatto. Comunque, allora... Io sto facendo un'ipotesi. Sai che significa? Qual è l'ipotesi? No? Qual è l'ipotesi? Allora, mettiamo che siano degli ascoltatori della Zanzara. Ma non lo so, ma chi se ne frega? Ma non è quello. Tu non li hai interrotti. Sì, non vabbè, ti sentiresti moralmente cos'è questa roba? Ma non ho capito, ma che cos'è questa roba? Cioè, ma che cosa? Ma che ipotesi è? Cioè, quelli che sono stati forse non ti sono. E tu stai issando il popolo contro i Rom e per avere. No, amico per mio, fare, certamente, per non certamente non mi sento responsabile di questa cosa. E per fare la pena di morte domiciliare. Te sei per la pena di morte domiciliare. Te, l'amico tuo, l'amico Fritz Salvini, sì. Che vi appoggiate a vicenda. Io non appoggio non nessuno, e certamente non Salvini non ha bisogno di appoggiarsi a me. Dunque, non dire cazzate. Non dire cazzate. Vivete l'uno per l'altro. Siete, se cade uno, cadete tutti e tre. Te, Sgarbi e Salvini. Proprio. Fate un circolo, io parlo con sì. Cruciani e alzo sì. l'ascolti. Sì. Lui non può vivere perché non fa niente, perché il suo lavoro sarebbe quello di critico d'arte, ma non lo fa mai il critico d'arte. Ma non sai nulla, non sai Sgarbi, non sai, tu, non, tu non hai mai lavorato in vita tua, al contrario di Sgarbi, tu non hai mai lavorato in vita tua. Sì, infatti, cioè, infatti tu al confronto di Sgarbi, ancora devo tornare al a casa. Confronto io di Sgarbi, al confronto di Sgarbi, tu non fai nulla dalla mattina alla sera, non fai esatto, niente, infatti, non fai infatti, niente, infatti. Sei nulla facente. Vale. Ma comunque al di là di questo, al di là di questo, Alberto, infatti. Il problema non è questo, che cosa fai o cosa non fai. E nessuno si appoggia a nessuno, quelle sono due illazioni, va benissimo, te le faccio anche dire. Vediamo come va a finire. Ma va a finire cosa? Cosa deve andare a finire? Quando ci sono le elezioni, se spunta qualche lista che vai a finire con la lista di Salvini, vediamo. Ma che dici, imbecille? Vediamo, cosa dici? Ma cosa dici? Non capisci nulla, non capisci niente. No, infatti io non capisco nulla. Ma sì, però al di là di questo, non capisco. La cosa più interessante, al di là di queste due relazioni, cioè lo dice pure Parenzo che io mi candiderò, eccetera. Però al di là di questo, il punto è un altro. Io dovrei sentirmi responsabile per la morte dei tre ragazzi nel No, ma tu non ce l'hai coscienza, non ti sentirei mai responsabile. Sei completamente pazzo, tu sei pazzo, sei pazzo. Ti non puoi sentirti responsabile, non ce l'hai la coscienza. Comunque, amico mio, se ti piacciono i campi rom, se ti piacciono se ti piacciono detto, le roulotte buttate, parlare, così per strade non controllate da nessuno, se ti piace questa situazione, che non c'entra niente con quello sentito, che è successo, mi hai sentito ma dire tienitele, che tienitele campi tutte, rom. Tienitele, tieniti tutta questa situazione, tienitela, non mi interessa. Va bene, se va ti bene, piacciono va bene. Queste situazioni, bene, io non mi sento responsabile di nulla e dico. Sono tre mesi che fai campagna contro i rom. Io non faccio nessuna campagna contro i rom. Alberto, dico solo che quelli che hanno appiccato l'incendio sotto la roulotte. Fai il giornalista, non fare il DJ. Cosa c'entra? Ma chi sei tu per darmi lezioni di giornalismo? È arrivato Alberto Dall'Aquila, ma vai a fare in culo, va, ciao. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La zanzara. Get 19:38, casello di Trento Nord, pronto con la via card del biglietto. Arrivo da questa stupenda dipendente di Autostrade di cui sono pazzamente innamorato. Zanzara a pieno volume, mi guarda, mi sorride e mentre Parenzo parla di Soros mi dice: Parenzo è proprio un coglione, e scuote la testa. Siamo al top. Crucia, se manda a fanculo signor Parenzo per la difesa, che dici? La zanzara. Il modo in Svizzera per non avere più gli zingari è stato semplicissimo. Tutti i bambini che hanno trovato a fare accattonaggio e a rubare gliel'hanno tolti. In Svizzera oggi non c'è più un zingaro. Semplice. È all'aeroporto, credo, sta partendo da Bruxelles, da Strasburgo. Chiamiamolo Mussolini, dai, almeno così ci ha detto 2 minuti fa. Pronto? Onorevole Mussolini? Sì. Eccoci, Cruciani. E Parenzo. Cruciani, Cruciani o Cruciani? No, no, Cruciani. Sì, esatto. No, noi non abbiamo... Allora, noi nulla. Cruciani, Cruciani. Cruciani. Sì, sì, la verità. No, no, non abbiamo fatto non nulla. Non ho fatto nulla, te l'ho detto, niente. Io invece non ci credo. Ditemi la verità così evitiamo di mandare tutte le parolacce che sto dicendo da ieri al sindaco. No, alla no, Raggi, no. O Reggi o Ruggi. No, no, guarda, Alessandra, questa ti possiamo... volta... Stavolta non centriamo nulla. Cioè abbiamo spesso scherzato sul nome Mussolini con... Ah, e allora lo vedi? Allora ditemi la verità, perché è una cosa brutta. Perché guarda, se avete fatto lo scherzo è riuscito, perché la persona che ha ricevuto la telefonata peraltro ha detto che loro, quelli del comune, sì, il funzionario era quasi in imbarazzo, però intanto parlava, sì, ha detto che adesso faranno telefonate a tappeto a tutti i Mussolini della famiglia residenti nel comune di Roma. Addirittura. Per farvi... Ma come si chiamava questo qua? Ho detto scusa. Tal Rinaldi. Rinaldi, ma scusa, è lo stesso che noi abbiamo utilizzato per fare gli scherzi, Rinaldi. No, allora siete voi. No, ma ti diciamo, non siamo stati noi. Te lo diremo, figurati. Cioè, te lo diremo tranquillamente. Qualcuno ci ha copiato, c'è qualche cinese che ci ha copiato. Allora, io spero che sia così come dite voi, perché sennò sarebbe stata una cosa talmente grave. Grave, addirittura. Uno deve cambiare. Era brutto, cioè inopportuna da matti. Però la telefonata, dato che non è arrivata a me, sì, ma a una persona... Ma chi è arrivata la telefonata? Scusami. Ha lo stesso cognome, a una persona vicina del ramo della mia famiglia che ha lo stesso cognome. Ma chi è? Tra l'altro ha parlato con la... È uno studio professionale. Tra l'altro ha parlato, sì, con la segretaria e non ti dico tutto bello dicendo, sì, che il servizio è veloce, non gratuito, quindi si paga pure, sì, però è una cosa che sta in breve tempo, sì, capito? E suggeriva Mussolini, Mussolini, Mussolini. Ma meno male che non mi hanno chiamato a me. Guarda, io sto qua in aeroporto, se no ti direi quello che vorrei dire, ma non posso. No, ma dimmelo, per carità, capito? Dimmelo, per carità. Cruciani, Cruciani o Cruciani. Ma noi non c'entriamo niente. Nulla, nulla stavolta, non c'entriamo niente. Nulla. Allora che è stata? La Raggi o Reggi o Ruggi? No, non lo so, sarà stato allora, qualcun altro che si è spacciato per noi, non lo so, noi non siamo stati. La cosa che ti voglio chiedere però è... Vabbè. Questa, scusami, ma tu sei orgogliosa di chiamarti Mussolini? Ma come, gliel'ho dato pure ai miei figli, ma che state... Beh. Scherzando, non mi fate parlare. Come gliel'hai data ai tuoi figli? Non come ho capito. Allora, io ho avuto Caterina la prima, Clarissa, sì, e Romano come papà, mio padre Romano, certo, sì, musicista jazz. Ho dato il mio cognome, si chiamano Caterina, con, anche col cognome mio, Mussolini. Cioè, per il cognome cui... del padre e il cognome, sì, mio. Ma tu l'hai dato perché sei... Tu l'hai dato perché sei orgogliosa del fatto di chiamarti Mussolini, diciamo la verità. Ma io come donna, certo, anche della famiglia. Tu sei orgogliosa di chiamarti Cruciani, Mussolini. Cruciani, Cruciani. No, innanzitutto non siamo stati noi, per cui è inutile che torni su questa storia qua. Basta. Io penso che tu debba mantenere il tuo cognome. Però tu mi devi dire... Tu, io... Ma io ma scusami, ma io capisco se tu chiami a una persona che si chiama Troia, oppure Peretti, Peracci... Vacca, ma quello, a parte che pure chi si chiama poveraccia, altro io, Vacca, può essere orgogliosissima, si chiama sia Vacca. Ma c'è anche, c'è anche il nostro amico Italo Bocchino per quello. Bravo, bravissimo. E quindi, e uno si sceglie liberamente, poi se lo vuole cambiare lo cambia, ma non è che tu il comune piglia, chiama e dice, sì, lo vuoi cambiare. E io ripeto la domanda, sei, fatti tuoi, sei tu, orgogliosa i funzionari di... e la Raggi, Reggi, Ruggi. Sei orgogliosa di chiamarti Mussolini, Cruciani, sì o no? Ciao. No, ma sei orgogliosa o no? Questo no, ma io... da sempre sei orgogliosissima. Sono nata così. Sei orgogliosa di chiamarti. Sono nata, sono Doc, Duck e Duke. Per cui non lo cambieresti mai per nessun motivo al mondo. Ma quello, il mio cognome, scusa, uno nasce con la propria famiglia, le proprie origini. Ma sai, Mussolini è un cognome è un cognome controverso. È controverso il cognome adesso Mussolini. Adesso non fate, adesso non mi dovete rompere le scatole che sono qui, non posso parlare. Quindi se non siete stati voi, promettetelo, me la devo prendere ancora una volta con la Raggi. Sì, prenditela con la Raggi, sì, non siamo stati noi. Non siamo stati noi. Hai saputo di questi rom che sono morti a Roma, innanzitutto? Mamma mia, che tragedia. Sì, però bisogna risolvere la questione. Questa è gravissima, la questione, perché non si possono chiudere gli occhi. Ci sono, cioè, in che senso? Vivono in condizioni tremende e precarie. Non è un episodio che è il primo e non sarà l'ultimo. Bisogna mettere mano a questo. No, ma ho capito. Non possono stare come stanno e far finta di niente. Ma la colpa sarà stata... La colpa è pure di quelli che vivono in queste condizioni, quelli li sgombrano, gli danno l'opportunità. Loro non vogliono andare nelle case stabili. Ho capito, ma quelli gli hanno buttato la benzina. benzina sotto la roulotte. Questo è gravissimo, ma perché è una condizione grave di inciviltà, anche perché il comune non fa niente. Cioè tu dici la colpa non anche di quelli che vivono in questo modo? Ma certo, perché queste persone vivono in condizioni disumane. Ho capito, amica mia, però qui il problema... d'accordo, ma qui il problema... No, non è possibile. Se accampano, fanno di tutto e rubano, diciamo. Sì, d'accordo, però questo qualcuno gli ha buttato la benzina sotto la roulotte. E questo è gravissimo. Vuoi dire che è gravissimo. Non deve accadere, ma accade, perché vivono in quelle condizioni. La raggi, o reggi, o ruggi. Pensasse a questo. Pensasse all'immondizia. Pensasse a questi che vanno a rubare, a prendere dai cassonetti. Pensasse ai rame. Non c'è la luce per Ho capito, ma sembra che la colpa sai cognomi. No, ma sembra che la colpa ma di questi governa. Che si sono salvati i genitori e non i figli. Quelli hanno un concetto di figlio relativo. Cioè? Li vanno a fare, li vendono, li fanno chiedere l'elemosina. Dai, cioè sfruttano i figli, dici. Sfruttano i figli. Anche sfruttano i figli e le donne, le fanno sposare i giovani. Le pagano, sì, pagano, non so quanto costa una donna, 25, quello così fanno. Senti, detto questo, vabbè, mi ha fatto piacere sentirvi, siete stati onesti, bravi, grazie, non avete grazie. Fatto niente. Non abbiamo fatto niente, purtroppo, stavolta non l'abbiamo Andiamo fatto Andiamo avanti, niente. Però guarda, pensa a questa roba di cambiare il cognome, forse, nel tuo caso potresti anche sceglierne un altro. Col cazzo. Non mi farei dire la parolaccia di Davide, perché me la fai dire? La stavo dicendo davanti col al cazzo, col cazzo, vabbè, detto, col cazzo, col cazzo, Davide. Col cazzo che cambia cognome. Ciao. Allora, Annibale, provincia di Sondrio, vai Annibale. Non ho gli elefanti, li ho lasciati in montagna. Vai, Annibale, che superò le Alpi a un certo punto, il signor Annibale. Ascoltatemi, io volevo dire una sola cosa, sono un pochino fuori argomento. No, non c'è argomento, Annibale, vai. Ho capito questo da un po' che vi seguo, quindi... Vai, dimmi. No, volevo dire questo, ma tutta quella plastica che è bruciata lì a Pomezia... Tutto quel disastro, non ci sono stati morti per fortuna, ma come mai c'erano lì tutte quelle tonnellate di plastica lì? Ma non lo so, perché? Dimmelo tu, perché? No, dico, perché non è che stato... qualcuno l'ha messa a posta? Sì, Soros l'ha messa. E il bruciare è stato un modo per poterla liquidare? Non lo so, amico mio, ma non siamo questa, non è la polizia. Sta indagando la magistratura. Non siamo i carabinieri noi, Annibale, che vuoi? Ho capito che non siete i carabinieri. E allora perché hai chiamato? Perché hai chiamato? Ho chiamato solo per dire questo. Ma no, ma io ci ho scritto, vuole intervenire sui Rom. Cosa volevi dire sui Rom? No, sui Rom volevo dire che comunque... è una grande, chiunque sia stato a fare una cosa del genere è una gran vigliaccata. Vabbè, questo lo sappiamo, poi... Meno male. Non si può giustificare col fatto che questi qua rompono le palle. Vabbè, Alessio, ho capito, Nunzia da Milano, vai, meno Nunzia male, da Milano. Meno male. Sì, pronto? Dimmi. Buonasera. Senta, io intervengo... No, però scusi, lei è in viva voce oppure con l'auricolare, per cui è inutile che... No, nel viva voce o nell'auricolare. Dimmi, Nunzia, dimmi. Allora, io chiamo, sono un'ascoltatrice, per verità, soprattutto della trasmissione di Alessandro Milan, e quindi ogni tanto benissimo, sento ottimo. Anche voi. No, chiamo per questo motivo, non so cosa si dire del sogno fondesta, basita dalla violenza di questa trasmissione. Sì, molto violenta, Immaginavo fosse un fenomeno da social, invece mi accorgo che è anche un fenomeno radiofonico. Benissimo. Mi chiedo perché, nel senso che... Ce lo chiediamo anche noi, perché fare questa trasmissione? Perché è un problema che ci pone... Questa è una domanda importante. È una domanda molto interessante. Ogni giorno, dice perché... La domanda è questa. Allora, la domanda è vero, no, che perché? Il fenomeno c'è e non siete voi che lo create. No, e noi non siamo, noi non c'entriamo niente. Può essere anche... Ma di cosa sta parlando, scusi? Io mi riferisco a questa violenza. Ah, la verbale. Violenza. Beh, è un tema molto complesso questo qua. Interessante, un tema complesso. Però un attimo solo, che abbiamo un'interruzione. La violenza è la rivolta. La radio è fatta di interruzioni perché c'è la pubblicità. Mi scusi, forse non appartiene alla sua, al suo ordine di idee. Però no, è così. No, aspetto però va avanti così la radio, mi scusi. Bruciani, vai a fanculo, sei un gran pezzo di cazzo, sei un bastardo dentro, sei un cretino, bastardo razzista di merda, adesso ormai sei pronto a fare il vice di Salvini alla Lega Nord, che cazzo vuoi bastardo che sei altro, ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, ma vai a culo, culo, culo, culo, ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, culo, culo, culo, culo, bastardo che sei Cruciani. Vai, spada di fuoco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. Tu sei partito per grande stipendio a condurre trasmissione con Cruciani. Io son rimasto a pulire e lustrare molteplici bottiglie di champagne. Mi hai detto tra 5 minuti chiudiamo, ma i miserabili ti tengono ancora là. Qui tutto pulito, tartine al salmone, all'osti e caviali a volontà. Torna a Padova, torna a Padova, dottore aperitivo più non fa. Torna a Padova, torna a Padova, a Roma c'è lì caldo e casa pound. Torna a Padova, torna a Padova, senza te Bitonci trionfela. Torna a Padova, torna a Padova, la maggioranza silenziosa aspetta te. Ad Tole no paga contributi. Tu sei partita per un grande sogno, diventare designer a New York. Io son rimasto qui nella provincia, che stupidi capricci non ne ho. A giugno m'hai detto ritorno a settembre, ma era giugno di 2 anni fa. Naturalmente. Non m'hai più chiamato, hai forse vergogna di ammettere che hai fallito? Non importa, dai, sciocchina. Torna Udine, torna Udine, perdonerò la tua ingenuità. Allora eravamo con Nunzia. Vai, Nunzia, parlava. Torna Etruria, allora, tanto Unicredit poi ti smentirà. Torna Etruria, torna Etruria, tanto poi la Boschi mai si dimetterà. E torna Etruria, e torna Etruria, tanto poi la Boschi non si dimetterà. Allora, Nunzia. Ecco. Sì, allora nel frattempo ho anche scoperto questo lato goliardico, sì, della trasmissione. No, adesso lo scopre, 7 anni in Tibet qui. Ora. E mi congratulo dell'aspetto. Vabbè, Nunzia, adesso non mi fare venire il latte alle ginocchia, per favore, dimmi che cosa vuoi. Allora, dimmi. La cosa è questa, è una, sì, curiosità e una riflessione. Ma una curiosità, una riflessione. Bello, però quando ci sono questi momenti mi piace molto invece a me, perché è giusto allora, aprire. Allora, posso? Sì, mi dimmi. Certo, allora, cara, certo. La domanda è la seguente. Posso che la violenza c'è nella nostra società e che forse anche dare modo di esprimerla, la spegne, eccetera, eccetera, sì, non mi dilungo su questo aspetto. Sì, no, ma potremmo invece approfondire. Grazie. Allora, avendo io sentito l'intervento di quel vostro ascoltatore a proposito dei Rom, che sì, in qualche modo giustificava perché diceva sì, allora, questi sono esasperati e quant'altro. Sì, vabbè, allora. La domanda che mi faccio la è questo, che dare la stura a queste voci che magari possono rimanere afone, invece tramite queste trasmissioni trovano modo di esprimersi. Non c'è dubbio. È un po' come dire, la riflessione è questa, il sintomo non è la malattia, siamo tutti d'accordo, ma qualche volta si autoalimenta. Io trovo un'autoalimentazione, purtroppo devo urlare, ero partita piano, ma perché vedo che avete la tendenza a interrompere. Sì, interrompiamo molto noi, abbiamo questa usanza. Allora, non volevo fare la voce perché perché non mi piace, ma lo so, purtroppo bisogna fare così. Dunque, solo questo. Solo questo. Scusi. Da una vita. Non ho capito nulla, però va bene. Cioè lei dice il pericolo è quello che noi diamo voce, è una vecchia questione. Non io è però... un pericolo, è la domanda, come mai? Se è la domanda come mai? Qui Prodest, non lo so, interessante, una cosa. È molto interessante. Signora Nunzia, posso farle una domanda molto semplice? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Scusi, signora. No, no, no, no, no, no. Nunzia. Tremo. Nunzia. Dimmi, ci diamo del tu? Sì, sì, ci diamo del tu. Aiuto. Hai mai fatto dello squirting? No. No, non hai mai squirtato in vita tua? No. È molto male questo qua, però può succedere naturalmente. Cioè, ti è capitato qualche volta di eiaculare in maniera talmente... Guarda, Luciano, io devo dirti una cosa, perché abbiamo detto che ci diamo del tu. Le volte che mi è capitato di ascoltarti, ho notato un guizzo di intelligenza che mi è molto piaciuto. Ma questo è interessante, però è interessante questa cosa. No, ma è interessante, molto è interessante l'idea che una persona che è così pacata come lei, poi magari sotto le coperte squirta. No, eccezionale, sarebbe eccezionale. Sarebbe eccezionale. Concludo, e ti dico concludo, ma che è? Intelligenza. Unite frammisto un gusto per l'orrido che è descritto. Ma nella non è orrido, ma lo squirting è una cosa eccezionale. Non è orrido. Hai ragione, mi piace questo riferimento. C'è una responsabilità nella parola, soprattutto perché si conduce una trasmissione. Sì, e qui mi tacco. La domanda era molto semplice: era questa, lei squirta o no? Ho già risposto alla domanda. Lei non squirta, benissimo, non squirta. Vabbè, mi sei passato a lei, mi piace. Lei squirta o no? Lei squirta o no? Mi sei passato a lei e mi fa piacere. Ok, benissimo, torna a lei. Lei squirta o no? Questa domanda, la risposta è no. No. Ti abbraccio. Ti abbraccio. No, per carità, no. Ma la risposta è ma non è l'orrido, la vita. Ho capito, siccome ne hai molti, di cui tu comunque ti congratuli. È l'umido della vita, ma va bene, non è necessario. Ma non ce l'hai. Ma no, ma è l'umido, mica è necessario farlo. Una ragione. Ma sono, non è necessario farlo. Tutto, la vita è bella perché è variabile. Ma no? Perché urla lei? Perché sta è incredibile. Lei urla, io no. Lei urla, io no. Allora, lei urla, io no. Se tu non mi copri, io abbasso, guarda. Benissimo. Abbassa la voce un attimo. Non si abbassa la voce. Perfetto. Dunque, tu non, quando sei a letto con un uomo, lo squirting non lo fai. Ti ho già risposto. No, ma non devo lo fai. Continuare. No, ma va bene, per sapere. La voce. Mi piace. Plosecco, pronto, plosecco. Mi piace che tu lo dica con la voce, con una voce calma, tranquilla. No, io non squirto. Ma lo puoi dire che io mi entusiasmano queste cose, anche se dici di no. No, non squirto. E guarda, non credo di non avere. Ma sai cos'è lo squirting? Ma sai cos'è lo squirting? Come ti ripeto, secondo me ci sono molti teleascoltatori, radioascoltatori che ti daranno tante soddisfazioni. Ti do un bacio. Con me questa soddisfazione, ciao. Fate, non hai ragione. Ma no, ma no, semplicemente non lo fai, non lo pratichi. Guarda, ciao, Nunzia. Sono anomala di nuovo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Buona vita. Ma buona vita. Bene. Buona vita. Bello come approccio. Allora, c'è un sindaco, ti dico subito, caro Parenzo, c'è un sindaco. Io l'altro giorno ho letto una notizia, no? Terremoto a Valle di Maddaloni, indagati sindaco e vice sindaco. Questo sindaco, che si chiama, se non sbaglio, Giovanni Pascarella, viene accusato, secondo quello che leggo sul Mattino di Napoli dell'altro giorno, anzi ieri, di essersi intascato, di avere pagato un proprio debito attraverso il comune. Tutto un trucco contabile per coprire, attraverso soldi nostri, cioè soldi pubblici, un suo debito di circa 70.000 euro, che è maturato nella sua attività imprenditoriale privata. Io proverei a chiamare questo signore, questo sindaco, questo Pascarella. Vediamo che reazione ha Pascarella. Pronto? Sindaco? Sì. Salve, Radio 24, come sta? Bene, benissimo, no? Benissimo, addirittura. Figurati. Cioè, lei viene accuse gravissime, lei dice benissimo. Ma guarda, accuse gravissime, come si permette di dire accuse gravissime? Calma. Ma come? Calmiamoci. Accuse gravissime, lei è indagato. Davanti di chi? Ma scusi, no, lei è stato accusato di avere sottratto dei denari. Ma che ho sottratto? Ma che state dicendo? Come vi permettete? Adesso vi denuncio al mio, come vi permettete? No, ma scusi, come vi permettete a dire una cosa che ho calma. Sottratto? Calma, calma, calma. Calmiamoci. Calma. Scusa, ma è incredibile. Richiamiamo un attimo. Ma non lo so, le accuse, mica ho detto che è colpevole, ma è impazzito questo qua. Ma vaffanculo. Valle di Maddaloni, richiamiamo. Pronto? Pronto? Scusa, mi calmiamoci un attimo, sono Parenzo. Ma come ti permette di che... No, no, ma quello è il mio collega, calmiamoci un attimo, no, non c'è... Lei, scusami, ma lei come si permette io di... Io sono Parenzo, Radio 24, Confindustria. Ma non mi interessa che lei mi dici io sto tratto, a chi ho sottratto, a chi? No, calma, ho detto calma, accuse calma. Gravissime, accuse gravissime ho detto. Non ho detto che lei è colpevole, calma, calma, calma. Quale accuse gravissime riguardante che cosa mi deve dire? Che allora, cosa? Allora, lei... Me lo sono messo in dash, ma lei lo sa che ho fatto il bonifico? Lo sa che ho vinto quale la bonifico? Casa? Allora, lo sa o no? Io leggo. Calma. Legge sbagliato, legge adesso domani la cosa che faccio e domani a chi denuncia, a chi correva. E allora io mi dici, ma ce lo dica a noi allora, ce lo dica ma, su... voi, ma voi chi siete che lo dica a voi? Ancora? Chi siete? Radio 24! Ma non mi interessa di Radio 24, male. Ma io non l'ho, ma non l'ho detto che ha sottratto, ho detto come? Che lo accusano di avere sottratto. Mica ma ho detto... non è vero, siete dei bugiardi. Ma scusa, no. Dei bugiardi, allora, scusa. Sindaco, un attimo. Calmo. Deve stare calmo un attimo. Calmiamoci, no. Perché lei non si deve permettere. No, no, facciamo. Guardi, allora. sono Parenzo. Faccia con me un respiro un attimo e poi riprendi. No, non deve fare lei un respiro. Perché io faccia un respiro. Contatto. Allora, terremoto a Valle di Maddalena. Leggo sul Mattino. È una grande bugia. Questa ancora. È una cosa che si fa. Ho fatto il buon. Io ho vinto una causa. Leo, se io ho sottratto. No, non l'ho detto sottratto. Avrebbe, secondo le accuse, avrebbe. È sì, quello, sì. Ho detto. Se lei ha capito male, mica è colpa mia. Scusa. No, non ho capito male, io ci ho registrato tutto. Io guarda. Leggo il Mattino, terremoto a Valle di Maddaloni. Indagati sindaco e vice sindaco. Benissimo. Questo il 9, dunque ieri. Sono tutte fesserie. Tutte cazzate. Sono... Lei non avrebbe preso nessun soldo pubblico per pagare debiti privati. Io ho preso i soldi pubblici. Ma io non lo so, è quello che scrivono. È quello che... Io ho preso i soldi. Questa è una cosa di 6 mesi fa che ho preso i soldi pubblici. Ma io. Ma sto scherzando. Ma io che cosa c'entro io? Mica la sto accusando io. Ma perché mi avete chiamato? Allora, dico, non è vero, non è assolutamente vero. Domani vi faccio. Mi dite dove vi faccio la e vi dico come faccio la conferenza stampa. Allora, c'è un'indagine nei suoi confronti? Sì o no? Non c'è un'indagine. No, non è che non c'è un'indagine. Si sono prese le carte dal comune. Quale indagine c'è? Scusatemi. Scusi un attimo. Dicono qua, sul Mattino di ieri, scusi un attimo, che c'è un'indagine da parte. Si sarebbero concluse le indagini da parte dei carabinieri, eccetera, eccetera. Che proverebbero, per carità, se no lei si arrabbia. Che proverebbero il fatto che lei avrebbe, per pagare un debito privato, avrebbe utilizzato ma i fondi. Ma io il sindaco prendo i soldi dal comune e pagare un debito privato. Ma è questo. Normale, ma io, ma se è certo che non è normale, non sarebbe normale, no? Su questo non c'è dubbio. Ma secondo me non è normale. Male che adesso stanno le elezioni il giorno 11 giugno, adesso si scade il mandato. E allora? Che c'entra? E allora, secondo me, non è questa col di opposizione che stanno facendo questo. Io non lo so, scusi, il Mattino, mica è l'opposizione il Mattino di Napoli, no? No, si ha fatto la denuncia. Scusi, come però... Come un sindaco prende i soldi e si mette i soldi nella tasca? Ma no, così, con una specie di trucco di bilancio c'è scritto, lei avrebbe trucco fatto. Trucco di bilancio. Però scusi, sono Parenzo, adesso basta, perché non è possibile. Lei mi sembra una persona, in questo momento, fortemente agitata ed esagitata. No, io sono super tranquillo. Non è tranquillo per niente. Dei soldi non è tranquillo per niente e questo non va bene. Lei mi sembra una persona agitata sopra le righe. No. È vero o no che lei ha estinto il suo debito attraverso le casse del comune? Sì o no? No. Non è vero. Si dimette da sindaco o no? Io mi devo dimettere da sindaco. Perché mi devo dimettere da sindaco? E che ne so, per le accuse magari gravi, uno si dimette. Ma quale accuse? Ma quale grave? Ma quale accuse? C'è un'indagine o non c'è un'indagine? Ma io ho fatto un bonifico, ma che state dicendo? Ma quando l'ha fatto sto bonifico? 6 mesi fa, ma che state dicendo? Bonifico di che tipo? Perché che bonifico doveva fare? Per pagare il suo debito? Arrivederci. Ma per pagare il suo debito? Per pagare il suo debito? Franco da Napoli, Franchino, ma certo che sto strani sti sindaci della Campania, mamma mia, che nervosismo, non si può fare una telefonata, non si può fare un'accusa, 70.000 euro, ma mica l'abbiamo detto noi, i carabinieri hanno fatto, ma la cosa è incredibile, Franco, dai, tutto questo nervosismo, Franco, dimmi. Buonasera Don Peppino, buonasera. Dimmi, Don Peppino, chiama qualcun altro dalle parti tue. Ecco, se adesso ti offendi, chiamo da Napoli, tu ti offendi sempre da Napoli, ecco, siamo in ma tema, figurati, no? Figurati. Tu sei veramente un istigatore, il signore che prima ha chiamato ti ha definito tale, un istigatore ormai veramente questa trasmissione molti dei giornalisti dovrebbe radiare a te e all'altro tuo collega. Sì, sicuramente. Siete veramente due istigatori. Sì, sì, sì. Ci manca solo questo. La magistratura se n'è già occupata. Se n'è già successo. Continuamente, continuamente accade. Dopo i fatti, ultimi fatti, siete anche un po' provocatori, sicuramente. Certi fatti li provocate. Vabbè, li provocate Franco, anche voi, Franco, alla fine del discorso, tu cosa vuoi? Fai anche l'istigatore nei confronti anche degli italiani contro altri italiani. Sì. E tu sai bene a chi mi riferisco. Sì. Nel territorio nei confronti dei campani, dei napoletani. Vabbè, in particolare, Franco, c'hai proprio un astio incredibile. Vabbè. Tu ti devi vergognare. Tu sei da giudicare dalla magistratura. Sì. Da magistratura. La magistratura. Mi meraviglio, sì, come deve intervenire la magistratura. Di cosa ti meravigli, Franco mio? Di che cosa? Dobbiamo chiudere la magistratura. La magistratura. Asmodeo, vai via. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Dottore no paga contributi. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.